31. Il passaggio. Nella stiva di un umile piroscafo sul fiume Rosso, Tom era seduto con la catena alle braccia, la catena ai piedi e con un peso ancor più grave delle catene che gli opprimeva il cuore. Il cielo per esso non aveva più né luna né stelle. Tutto era passato per lui, come rapidamente passavano sotto i suoi occhi le rive. La casa del Kentucky, con i suoi padroni indulgenti, con sua moglie e i suoi figli, la casa di St. Clair, con tutte le squisitezze e gli splendori, la bionda testa di Evangelina con gli occhi celesti, il fiero, gioviale, bello, sconsiderato in apparenza, ma sempre buono St. Clair, le ore della quiete e dei brevi ozi concessi, tutto, tutto egli ha perduto, invece che gli rimane? È questa una delle più crudeli piaghe della schiavitù. Il nero che simpatizza per natura e facilmente assimila, dopo aver acquistato in una ragguardevole famiglia i gusti e i sentimenti che ne formano l'atmosfera, è esposto a divenire la proprietà dei più abbietti e più brutali fra gli uomini, nel modo stesso che una sedia o una tavola, dopo aver ornato un elegante salotto, passa malconcia e logora a star presso il banco di un'ignobile taverna. La gran differenza è che la tavola e la sedia non hanno sentimento alcuno e che l'uomo sente, poiché è lo stesso atto legale in virtù di cui è preso, aggiudicato e venduto come proprietà personale, non può togliergli la sua anima col suo piccolo mondo di memorie, di speranze, di amori, di timori, di desideri. Simone Legree, padrone di Tom, aveva comprato a New Orleans 8 schiavi. Egli aveva tratti seco, bene ammanettati e incatenati a due nel legno a vapore, il pirata che era sulle mosse per risalire verso la sorgente del fiume Rosso. Dopo averli debitamente imbarcati e partito che fu il piroscafo, egli venne con quell'aria affaccendata che gli era propria a farne la rassegna. Fermatosi dinanzi a Tom, che per la vendita era sì adornato del suo abito di panno fino, della biancheria molto ben inamidata e dei suoi stivali lustri, gli parlò brevemente in questo tenore: «Stai sorritto!» E Tom si alzò in piedi. «Levati la cravatta!» E perché Tom, impedito dalle catene, procedeva lentamente a tale operazione, gliela strappò egli stesso con mano poco gentile e se la pose in tasca. Legree si volse poi a frugare nella cassa di Tom che aveva saccheggiata e trattenne un paio di vecchi calzoni e una giubba logora che Tom indossava per i lavori più rozzi. Gli disse, togliendogli le manette e additandogli un luogo in disparte: «Va e indossa questo». Tom ubbidì e tornò subito. «Levati ora gli stivali», disse Legree. Tom si cavò gli stivali. «Tieni», soggiunse egli gettandogli un paio di ruvidi scarponi da schiavo, «mettiti questi». In quel frettoloso cambio di vesti, Tom non aveva dimenticato di rimettersi in tasca la sua diletta Bibbia e fu gran fortuna per lui, poiché Legree, dopo averlo di nuovo ammanettato, frugò tranquillamente le tasche dell'abito di cui Tom si era svestito. Ne cavò un fazzoletto di seta che intascò, guardò poi con un brontolio di disprezzo vari gingilli che Tom serbava perché erano stati di trastullo a Evangelina e li lanciò per di sopra la sua spalla nel fiume. Trovò inoltre la raccolta degli inni di Tom che questi nella fretta aveva dimenticata. «Oh, un bigotto, se non erro. Sei membro di una chiesa, eh?» «Sì, padrone», rispose Tom con fermezza. «Ebbene, io te lo leverò presto dal capo. Non intendo di avere in casa negri che vociferano, che cantano, che pregano. Bada di ricordartene. Ascolta bene quello che ti dico», soggiunse battendo la terra col piede e fissando Tom con quei suoi occhi pieni di malignità. «Io sono adesso la tua chiesa, mi capisci? Bisogna che tu faccia in tutto e per tutto a modo mio». C'era qualche cosa nell'anima del nero che rispondeva no. È come se una voce misteriosa gliele avesse ripetute all'orecchio, egli udì nel proprio cuore le seguenti parole di un volume antico che spesso Evangelina gli aveva lette: «Non temere, perché io vi riscattai e ti chiamai col mio nome, tu sei mio». Ma Simone Legree non udì quella voce né l'udrà mai. Guardò solo per un istante il volto abbassato di Tom, poi gli volse le spalle e passò oltre. Prese la cassa di Tom, che conteneva una pulita e abbondante provvista di roba, la collocò sulla parte anteriore del piroscafo e pezzo per pezzo vendé ogni cosa alla gente che v'era imbarcata, con gran risa e motteggi sui neri che fanno la scimmia ai gentlemen. La cassa, rimasta infine vuota, Fu parimenti messa all'incanto. Era molto divertente, dicevano, vedere come Tom seguisse con lo sguardo ciascun capo della roba sua mentre passava nelle mani di questo o di quello. La vendita della cassa fu anche più sollazevole e diede occasione a un gran numero di barzellette o di motti. Finito questo affaruccio, Simone tornò presso la sua proprietà e disse: Come vedi, Tom, io t'ho sbarazzato del superfluo che avevi. Abbi cura delle vesti che ora indossi, poiché passerà gran tempo prima che tu ne abbia altre. Simone s'accostò poi a Emmelina, seduta in disparte e incatenata con un'altra donna. Ebbene, mia cara, disse egli accarezzandole il mento, sii di buon umore. Lo sguardo involontario di spavento e di avversione che gettò su di lui la giovinetta non gli sfuggì e, aggrottando le ciglia irritato, non tante moine, ragazza, tu devi farmi buon viso quando ti parlo, mi intendi? E tu, vecchia pergamena, disse egli, dando un urto alla mulatta con cui Emmeline era incatenata, non mi fare quel muso arcigno, sarà meglio per te di guardare con più gentilezza, ti avverto. Ora ascoltatemi tutti. Proseguì indietreggiando di 2 o 3 passi. Guardatemi bene in viso, guardatemi proprio negli occhi, su! E pestava coi piedi. Gli occhi di tutti, come affascinati, si fissarono negli occhi verdastri e acuti di Simone. Ora, disse egli stringendo il pugno grave ed enorme a guisa di un martello da fabbro, vedete questo? Pesalo un poco, soggiunse rivolto a Tom e lasciandolo cadere sulla mano di lui. Sappiate che questo pugno è divenuto duro come ferro a forza di abbattere i neri. Non me ne capitò mai uno che io non sia buona ad atterrare con un solo colpo. Così dicendo, agitò il pugno sul viso di Tom in modo da farlo retrocedere. Io non mi fido di ispettori. L'ispettore sono io medesimo e vi avverto che nulla mi sfugge. Bisogna che ciascuno faccia il suo dovere e quando parlo obbedisca alla svelta e diritto come una freccia. E questo è il modo per intendersi meco. Non sperate di trovare in me benevolenza alcuna, perciò badate ai fatti vostri, perché io sono e sarò senza misericordia. Le donne, spaventate, tenevano involontariamente il respiro e tutti gli schiavi ascoltavano quel discorso con aria triste e desolata. Simone voltò loro le spalle e salì nella sala del piroscafo per rinfrescarsi la gola. Questo è il modo che adopero fin da principio coi miei neri, disse a un uomo di aspetto signorile che si era trovato accanto durante il suo discorso. Il mio sistema è di esordire con forza, non foss'altro per far conoscere loro ciò che li aspetta. Ah, esclamò lo straniero guardandolo con la curiosità di un naturalista che studia un fenomeno raro. Proprio così, io non sono di quei possessori di piantagioni con le mani bianche, i quali si lasciano infinocchiare da un maledetto agente. Tastate le mie articolazioni, guardate bene questo pugno. Vi dico io, signore, che la carne di cui è rivestito somiglia in durezza al marmo per il lungo uso di colpire i neri. Lo straniero pose le dita su quel pugno chiuso. È abbastanza duro, infatti, disse, e suppongo che la pratica abbia reso il vostro cuore non meno duro di questo. Eh sì, posso vantarmene, rispose Simone Legré con una sghignazzata. Non ho il cuore tenero e ve l'assicuro, i neri non mi gabbano né con piagnistei né con smorfie. Ah, voi ne avete qui un bel assortimento. È vero. Quel Tom, per esempio, a quanto mi è stato detto, è qualche cosa di raro. L'ho pagato molto perché voglio farne un cocchiere o un agente. Bisognerà soltanto togliergli dal capo le idee che vi si sono di certo ficcate per essere stato trattato meglio che non si convenga ai neri e può divenire di prima qualità. Quella donna giallognola pare che sia infermiccia, ma non l'ho pagata più di quel che vale. Può reggere un anno o due. Io non sono di coloro che risparmiano i neri. Logorarne e comprarne, ecco il mio sistema. Ciò porta a minor fatica e maggior tornaconto. E Simone Legré continuò a centellinare il suo bicchiere di acquavite. E quanto durano di solito? Domandò lo straniero. Oh, ciò dipende dalla loro costituzione fisica. I più robusti durano dai 6 ai 7 anni, i deboli muoiono in 2 o 3. Una volta mi davo gran pensiero per conservarli. Malati, li provvedevo di medicine, biancheria, miglior vitto, fatica inutile, spreco di denaro e maggior disturbo. Ora, malati o sani, li faccio lavorare lo stesso. Se un nero muore, ne compro un altro, la cosa è più spiccia. Lo straniero si allontanò e andò a sedersi presso un signore che aveva ascoltato quel colloquio, frenando a stento lo sdegno. Non crediate che costui sia un modello dei piantatori del sud, disse. Lo spero di no, rispose il giovane con enfasi. È un uomo abietto, spregevole, crudele, disse l'altro. Nondimeno, le vostre leggi permettono che al potere dispotico della sua volontà sia abbandonato buon numero di creature umane, senza ombra di protezione. E per quanto costui sia spregevole, non sosterrete che non ve ne siano molti altri simili. Verissimo, rispose il primo interlocutore. Ma vi sono altresì fra i piantatori parecchi uomini onorati e benevoli. Lo credo, fece il giovane, ma a parer mio, cotesti uomini onorati e benevoli si fanno solidali di tutte le malvagità dei miserabili, perché se non fosse la sanzione loro, il loro sistema non reggerebbe un giorno. Se tutti i piantatori fossero come quello là, e additava Legree, questo iniquo sistema precipiterebbe come una macina. La vostra onoratezza, l'umanità vostra autorizzano e proteggono la ribalderia di costui. Non parlate così forte, ve lo consiglio. Possono trovarsi a bordo persone intolleranti. Quando saremo nella mia fattoria, direte tutto ciò che vorrete, senza pericolo. Il giovane arrossì e tacque. Nello stesso momento un altro colloquio si svolgeva all'estremità del piroscafo tra Emelina e la sua compagna di catena, la mulatta. Come era naturale, esse stavano discorrendo tra loro di alcune particolarità della propria storia. A chi appartenevate? Domandò Emelina. Il mio padrone era il signor Ellis, che ha la casa in Levi Street, forse l'avrete veduta. Era buono con voi? Sì, per il solito, finché non si ammalò. La sua malattia durò più di 6 mesi ed egli fu in tutto questo tempo l'impazienza in persona, non lasciava riposare alcuno né giorno né notte ed era così difficile accontentarsi che a nessuno riusciva di soddisfarlo. Egli diventò cattivo, intrattabile ogni giorno di più, mi faceva vegliare tutte le notti fino a che io fossi esausta di forze né potessi più stare in piedi. E perché una notte mi addormentai, egli mi sgridò e disse che mi avrebbe venduta al padrone più tirannico che potesse trovare. E quando mi ebbe promesso la libertà, morì. Avete degli amici? Le domandò Emelina. Sì, rispose l'altra. Mio marito è fabbro e il padrone di solito lo dava a Nolo. Mi hanno fatta partire così in fretta che non ho avuto il tempo di rivederlo e ho 4 figli. Oh mio Dio, esclamò la povera donna coprendosi con le mani la faccia. È cosa naturale che chiunque ascolta un racconto doloroso cerca nella sua mente parole di conforto e anche Emelina avrebbe voluto dire qualche cosa, ma nulla trovò. Che cosa avrebbe potuto dire? Quasi per un accordo comune, ambedue evitarono di parlare dell'uomo orribile divenuto loro padrone. La religione è di sostegno nelle ore anche più fosche. La mulatta apparteneva a una chiesa metodista. Essa non aveva molta educazione intellettuale, ma uno spirito sincero di pietà. Emelina era stata istruita con maggior cura e la sua buona e religiosa padrona le aveva insegnato a leggere e scrivere, le aveva fatto studiare la Bibbia. Ma è pur duro cimento alla fede dei più zelanti cristiani il vedersi abbandonati, almeno in apparenza, alla malvagità più sfrenata. Il piroscafo si inoltrava col suo carico di dolori verso la sorgente del fiume Rosso, sulle onde agitate e melmose. Attraverso sinuose rive e mesti occhi seguivano con sguardi abbattuti le sponde scoscese di argilla rossastra a mano che esse scorrevano nella loro uniformità desolante. Alla fine il piroscafo si fermò dinanzi a una piccola città e Legree sbarcò coi suoi schiavi. 32. Luoghi tenebrosi. Camminando a fatica dietro una rozza carretta per un'aspra strada, il povero Tom e i suoi compagni proseguivano il loro triste viaggio. Simone Legree era seduto sul dinanzi della carretta, le due donne, incatenate sempre l'una all'altra, occupavano alla rinfusa coi bagagli la parte posteriore e tutti insieme muovevano verso la piantagione di Legree, la quale era ancora a una buona distanza. Quasi ad ogni passo si vedevano schifosi rettili strisciare fra i tronchi spezzati e i rami infranti che ingombravano il suolo e imputridivano nell'umidità. Una strada siffatta parrebbe triste anche al viaggiatore che la trascorresse di galoppo, con la tasca piena di oro, per qualche affare importante, ma quanto è più selvaggia e più spaventevole agli occhi del povero schiavo, allorché ciascuno dei suoi stanchi passi lo allontana vieppiù dagli oggetti del suo amore e delle sue preghiere. Chiunque avesse osservato l'espressione di abbattimento di quei neri visi, la paziente stanchezza con cui quei mesti occhi seguivano gli oggetti che l'uno dopo l'altro passavano dinanzi a loro in quel malconcio viaggio, avrebbe compreso il significato delle nostre parole. E solo Simone aveva l'aria contenta, specialmente a cagione dell'uso che faceva tratto tratto della fiaschetta d'acquavite che portava in tasca. «Ehi, dico!» esclamò rivolgendosi indietro e gettando un'occhiata sui cupi visi di coloro che lo seguivano. Intonatemi un canto, figliuoli, su via. Gli uomini si guardarono gli uni con gli altri e il su via fu ripetuto con uno scoppiettio della frusta che il padrone aveva in mano. Tom cominciò un inno metodistico. Mia dolce patria Gerusalemme, che eterna brilli d'oro e di gemme. Oh, a questo core nome diletto, verrà ben giorno che ti vedrò e con immensa gioia nel petto non più gli affanni rammenterò. Taci, nero maledetto! Urlò Legré. Credi forse che io voglio udire il tuo infernale vecchio metodismo? Su, su, dico! Cantatemi qualche cosa di allegro, su, lesti! Uno degli uomini intonò una di quelle canzoncine che non hanno senso e che sono comuni fra gli schiavi. Il padrone passò ieri del sole al tramontar, mi vide due leggeri scoiattoli acchiappare. Il cantore pareva che dicesse estemporaneamente la sua canzonetta, cogliendo a caso la rima senza molto badare al costrutto, e l'intera brigata ripeteva a intervalli in coro: se ne andò, oh, canti ognuno come può. E quei tapini cantavano a squarciagola, facendo disperati sforzi per sembrare allegri, ma né i gemiti della disperazione né le parole di una preghiera ardente avrebbero potuto, come quel coro selvaggio, esprimere tanto dolore. Ebbene, cara fanciulla, disse Simone voltandosi a Emmelina e posandole una mano sulla spalla, eccoci giunti. Quando Legré strepitava e gridava, Emmelina era oppressa di terrore, ma quando le posava la mano addosso e le parlava in tal guisa, avrebbe preferito che egli la battesse. Lo sguardo di quell'omaccio le trafiggeva l'anima e le infondeva un brivido nelle ossa. L'infelice si stringeva involontariamente al fianco della mulatta come se quella fosse sua madre. Non portasti mai orecchini? Domandò egli prendendo con le sue rozze dita il piccolo orecchio della giovane. No, padrone, disse Melina tremando e abbassando gli occhi. Ebbene, quando saremo giunti a casa, se sarai una buona figliuola, te ne darò un paio. Non ti spaventare, io non voglio che tu lavori poi tanto. Starai meco, allegramente, vivrai come una signora, purché tu sia buona e docile. Legré aveva cioncato a tal segno da inclinar del tutto alla gentilezza e proprio allora si giungeva in vista della piantagione. La carretta inoltrò per un viale pieno di ghiaia e di erbe selvatiche, in mezzo ad alberi della Cina, le cui leggiadre forme e le foglie sempreverdi avevano resistito alla negligenza e alla distruzione, simili a quei cuori generosi in cui la bontà ha posto sì profonde radici, che essa vi germoglia e cresce sempre, nonostante lo sconforto e la trascuratezza. La casa, che per là dietro aveva appartenuto a un signore ricco e di buon gusto, era ampia e bella, costruita nello stile in uso nel mezzogiorno, aveva intorno una veranda a due piani, sulla quale si aprivano tutte le porte esterne e la cui parte inferiore era sostenuta da pilastri di mattoni. Ma tutto aveva un aspetto desolato e triste. Alcune finestre erano otturate con assi, altre avevano i vetri spezzati, le imposte non si tenevano più se non sopra un solo gangheri, tutto, insomma, annunziava la negligenza e l'abbandono. Frantumi di tavole, paglia, casse vecchie, tre o quattro cani di feroce guardatura accorrenti allo strepito della carretta vennero a gran balzi incontro ai viaggiatori. I laceri schiavi che con essi venivano poterono a stento trattenerli dal gettarsi addosso a Tommy e ai suoi compagni. Vedete bene con chi avete da fare se vi prendesse la voglia di darvela a gambe, disse Legré, carezzando i cani con brutale soddisfazione e voltandosi verso Tom e gli altri schiavi. Questi animali sono addestrati a dar la caccia ai neri, e divorerebbero uno di voi altri con la stessa facilità con cui ingoiano la loro scodella di zuppa. Badate perciò a voi stessi. Ora dimmi, Sambo, soggiunse rivolto a un omaccione mal vestito, il cui cappello non aveva più segno di tesa e che gli si affaccendava intorno. Come sono andate le cose qui? Ottimamente, padrone. Kimbo, disse Legree a un altro che mostrava molto zelo per attirare a sé la sua attenzione, tu non avrai dimenticato quello che ti dissi, spero. Certo. Quei due neri erano i principali personaggi dell'abitazione. Legree li aveva educati alla selvatichezza e alla brutalità, non meno sistematicamente che i suoi molossi, e con una lunga pratica di barbarie li aveva condotti allo stesso grado di capacità. Taluni osservarono, e fecero valere questa osservazione contro la razza, che un ispettore nero è sempre più tirannico e più crudele del bianco. Ciò dimostra semplicemente che il nero fu avvilito e degradato più del bianco. Lo stesso avviene di tutte le razze conculcate. Lo schiavo è sempre un tiranno quando ne trova l'occasione. Legree, come taluni potentati di cui si legge nella storia, governava la sua piantagione con una specie di antagonismo delle forze. Kimbo e Sambo si odiavano cordialmente tra loro, tutti gli altri schiavi della piantagione li detestavano con eguale ardore, e incitandoli perciò gli uni contro gli altri. Era ben certo di essere sempre ragguagliato da una delle tre fazioni di quanto succedeva colà. «Qua, Sambo!» disse Legree. «Conduci questa gente al loro quartiere e questa donna è per te!» soggiunse, distaccando la mulatta dai Meline e spingendola verso di lui. «Ti avevo promesso di recartene una!» La donna tremò tutta e indietreggiando di alcuni passi esclamò: «Oh, padrone, ho lasciato New Orleans mio marito! E che vuoi dir ciò?» Forse non te ne bisognerà uno qui? Non tante chiacchiere, vai innanzi, disse Legree e alzò la frusta, disposto a farne uso se il suo ordine avesse incontrato qualche resistenza. Venite, signora, disse poi a Emmelina, voi starete con me. Una faccia scura e selvaggia apparve un istante alla finestra e mentre Legree apriva la porta, si sentì una voce acre e imperiosa dire qualcosa. Tom, che stava guardando Emmelina con tenera ansietà, vi fece osservazione e udì Legree acerbamente rispondere: «Tacila! Fa quello che mi piace con voi tutti!» Tom non udì altro perché doveva seguire Sambo al quartiere degli schiavi. Il quartiere, posto a qualche distanza dalla casa, era una via costeggiata da due lunghe file di capanne rozzamente costruite. Tom si sentì stringere il cuore a quella vista e gli si era confortato con la speranza di avere una capanna semplice, sì, ma che egli potesse rendere pulita e tranquilla, dove fosse almeno un asse per deporvi la Bibbia e dove egli potesse prendervi brevi istanti di riposo e di solitudine dopo i lavori quotidiani. Nel passare gettò uno sguardo in parecchie di esse che erano totalmente nude, né altra suppellettile avevano che un mucchio di paglia immonda sul pavimento, trita e indurita dal lungo uso. «Quale di queste capanne è per me?» domandò Sambo con voce sommessa. «Non so, puoi entrar qui, mi immagino», disse Sambo. «Credo che vi sia posto ancora per uno. Abbiamo un gran numero di neri in ciascuna di queste capanne, non saprei proprio come ficcarvene di più». Era già notte quando gli abitanti del quartiere vi tornarono in folla, uomini e donne, con vesti sozze e lacerate, inaspriti e assai mal disposti ad accogliere nuovi compagni. Non si udiva nel piccolo casale alcun suono grato all'orecchio, ma solo voci rauche e gutturali che contendevano presso i mulini a braccia in cui gli schiavi dovevano macinare il cattivo frumento per le focacce, che erano la sola loro cena. Fin dai primi albori del giorno essi lavoravano nei campi, stimolati continuamente dal minaccioso frustino degli ispettori, poiché si era allora nel più forte del raccolto e nulla si trascurava per sfruttare senza pietà tutte le forze dei lavoranti. Ma, dirà qualche ozioso sbadatamente, cogliere il cotone non è poi una gran fatica. Oh, davvero? Anche il sentirsi cadere sulla testa una goccia d'acqua non è doloroso, eppure era una delle torture più crudeli dell'Inquisizione, quella goccia d'acqua che cadeva lenta, in una successione monotona e sempre nello stesso posto. Il lavoro non è grave in sé, ma lo diviene per necessità di un continuo faticare con triste e invariabile uniformità e senza il conforto almeno del sentimento di una libera accettazione di tanta noia. Tom andava cercando invano Fra gli schiavi sopraggiunti un viso simpatico. Non vedeva che uomini stizziti, malinconici e per metà brutti, donne infiacchite, scoraggiate, donne che non erano più donne. Il più forte che urtava il debole, l'egoismo animalesco e illimitato di creature umane a cui non si richiede né si ispira un buon sentimento e che trattate a guisa di bruti sono scese al loro livello. Lo strepito dei mulini a braccia si udiva fino a tardi nella notte perché, essendo troppo ristretto il loro numero, in paragone di quello degli affamati, i deboli e gli stanchi erano tenuti indietro dai forti, né potevano avere il loro turno se non dopo di essi. «Ehi!» disse Sambo, avvicinandosi alla mulatta e gettandole innanzi un sacco di frumento. «Qual è il tuo maledetto nome?» «Liusi», rispose la donna. «Ebbene dunque, Liusi, tu ora sei mia moglie, vai intanto a macinare questo grano e fammi cuocere la cena, intendi?» «Io non sono vostra moglie, né voglio esserlo», esclamò la povera creatura col subitaneo e fiero coraggio della disperazione. «Andate via!» «In questo caso sarai frustata», disse Sambo e alzò contro di lei un piede minaccioso. «Potete uccidermi se volete, più presto lo farete, meglio sarà. Ah, vorrei essere già morta!» «Ehi, Sambo, riferirò al padrone che tu sciupi le nere», disse Kimbo, che era intento a macinare il suo grano dopo avere con maligna durezza respinto due o tre povere donne spossate che attendevano per macinare anch'esse. «E io gli dirò che tu impedisci alle donne di macinare il loro grano, vecchio nero», rispose Sambo. «Sarebbe assai meglio che tu badassi ai fatti tuoi». Tom aveva fame dopo un sì lungo viaggio e si sentiva venir meno. «A te!» disse Sambo nel gettargli un ruvido sacco che conteneva un quarto di moggio di frumento. «Piglia su, vecchio nero, e abbine cura, perché non ne avrai altro in tutta la settimana». Tom dovette aspettare fino all'ultima ora per avere un posto ai mulini e quando l'ottenne, mosso a pietà dalla stanchezza delle due donne che pur si sforzavano di macinare il loro grano, lo macinò per loro. Raccolse i tizi quasi spenti su cui altri avevano fatto cuocere il loro pane prima di lui e soltanto per ultimo allestì la propria cena. Era colà una cosa del tutto nuova, un atto di carità, per piccolo che fosse, e valse a risvegliare nel cuore di quelle infelici una corda sensibile, un'espressione di affettuosa riconoscenza brillò sui loro volti induriti. Si diedero a impastare il suo pane e a farlo cuocere e Tom, al chiarore del fuoco, aprì la Bibbia poiché aveva bisogno di conforto. «Che cos'è?» domandò una delle donne. «Una Bibbia», rispose Tom. «Dio buono, non ne vidi più una da che lasciai il Kentucky». «Siete stata allevata nel Kentucky?» disse Tom vivamente. «Sì, e allevata bene, ve lo accerto. Non avrei mai creduto di dovermi ritrovare così», rispose sospirando la donna. «Ma insomma», disse l'altra, «che cos'è questo libro?» «Non avete inteso, è la Bibbia». «La Bibbia? Che è dunque?» «Come? Non ne avete mai udito parlare?» riprese la prima interlocutrice. «Qualche volta io ne udivo leggere alcuni passi dalla mia padrona nel Kentucky, ma povera me, qui invece non si sentono che bestemmie e minacce». «Leggetecene un po'», disse l'altra donna con curiosità, vedendo Tom tutto intento alla sua lettura. Tom lesse. «Venite a me, o voi tutti che siete travagliati e oppressi, e io vi concederò il riposo delle vostre anime». «Consolanti parole», disse la donna, «chi è costui che le dice?» «Il Signore», rispose Tom. «Vorrei sapere in qual luogo potrei trovarlo», riprese a dire la donna. «Io vi andrei di buon animo, poiché mi pare che qui non avrò mai un'ora sola di riposo. Tutto il mio corpo è dolente, le ossa mi tremano di continuo e Sambo mi sta sempre addosso come un mastino perché non lavoro abbastanza presto. Tutte le sere, già più di mezzanotte, prima che io abbia potuto fare la mia cena. E poi ho avuto appena il tempo di coricarmi e chiudere gli occhi che già suono un'altra volta alla sveglia e bisogna levarsi e tornare da capo. Se sapessi dove trovare il Signore, gli direi tutto questo». «Egli è qui. Egli è in ogni luogo», rispose Tom. Voi non me la darete a intendere. Lo sento bene io che il Signore non è qui, ma perché parlar tanto? Vado a coricarmi e a dormire ora che posso». Le donne entrarono nelle loro capanne e Tom restò solo vicino al fuoco, i cui ultimi barlumi tremolavano in riflessi rossastri sopra il suo viso.